America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Now we go first to Canada, where a man has opened fire at the war memorial in the center of the capital, Ottawa. Mercoledì 22 ottobre, una sparatoria in Canada, nel Parlamento canadese a Ottawa. Una sparatoria che ha improvvisamente riportato l'ombra del terrore in Occidente e soprattutto in Canada, dove non si erano ancora avuti incidenti di questo genere. Un soldato è stato ucciso da uno sparatore che poi abbiamo appreso non era solitario, ed è stato ferito davanti al War Memorial di Ottawa. Si chiamava Nathan Cirillo, era italo-canadese. L'attentatore è stato ucciso, sappiamo come si chiama, Michael Zahav Bibeau, un cittadino canadese nato nell'82, convertito, sembra, all'Islam, secondo fonti americane. Una situazione ancora fluida, devo dire, per cui non voglio darvi delle notizie certe al 100%, anche perché da fonti canadesi si tende a dire ma no, non si tratta di una vicenda legata all'estremismo islamico. Ci sono ancora molti aspetti che non conosciamo. Il più destabilizzante, devo dire, è quello secondo cui ci sono altri attentatori che sono a piede libero. Cosa è successo? È successo che si è passati all'improvviso in una situazione di allarme totale. Sentiamo. The victim of the shooting is a member of the Canadian Armed Forces. His injuries were fatal. What I can tell you is that a male suspect is now deceased. Ecco, avete sentito la conferenza stampa di ieri notte in cui sono stati dati alcuni dettagli. Tutto è cominciato nella mattinata di ieri quando una persona, l'attentatore, ha sparato e ucciso questo soldato, Nathan Cirillo, davanti al War Memorial, che è subito davanti al Parlamento. Dopodiché lui stesso e forse con altre persone sono riusciti a entrare nel Parlamento sparando, si dice, almeno 30 colpi, una sparatoria insomma senza precedenti dentro il Parlamento canadese. Una notizia, una storia che ha sconvolto tutti. Ma il premier canadese Stephen Harper a quel punto è stato isolato, si troverebbe in un luogo sicuro perché c'è il timore che ci sia un qualche attacco in corso in Canada, e dunque le precauzioni da prendere sono assolute. Una coincidenza che mi fa riflettere tuttavia sulla matrice di questo attentato è che proprio ieri sera Stephen Harper doveva incontrare il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, doveva incontrarla ad Ottawa, la ragazzina che ha avuto il premio Nobel per la pace, di origine pakistana. Può essere una coincidenza, le coincidenze ci sono, ma quando queste coincidenze si verificano in un contesto di tensione come quello attuale in cui sta nascendo e crescendo un'alleanza per combattere l'ISIS in Medio Oriente, in un'atmosfera di grande tensione generalizzata, beh, è lecito avere anche qualche sospetto. Il NORAD, nel frattempo il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America, è entrato in stato di massima allerta, ha aumentato il numero di aerei pronti a partire in caso di necessità, tutte misure di precauzione. L'FBI ha innalzato il grado di allerta, il presidente americano è costantemente informato sulle evoluzioni in corso. Ricordiamolo, si tratta dell'attentato più serio in Nord America, soprattutto contro un'istituzione come il Parlamento canadese, da quando ci fu l'attentato alla maratona di Boston. Johnson held a press conference and appointed Hoover head of the FBI for life. When he was done, turned to his top guy and the president said, call Ben Bradley and tell him fuck you. Ecco, vi ho fatto ascoltare per cambiare tema, ma non completamente, vedremo perché, un estratto dal film Tutti gli uomini del presidente, All the President's Men, grande film con Robert Redford, con Dustin Hoffman, ciascuno nelle vesti rispettivamente di Bob Woodward, giornalista del Washington Post, e di Carl Bernstein, anche lui giornalista del Washington Post, che hanno scatenato lo scandalo Watergate. Perché vi ricordo questo film? Perché è morto avanti ieri Ben Bradley, che è stato il direttore del Washington Post, che ha scatenato e sguinzagliato i due giornalisti, direttore di quelli d'altri tempi, dal 68 al 91, e di fatto un direttore che ha fatto cadere la presidenza degli Stati Uniti, la presidenza Nixon. Ecco, il fatto che questi eventi così distanti fra loro capitino tutto sommato a poche ore di distanza, devo dire, mi fa molto riflettere, perché ci conferma ancora di più che siamo alla fine di un'era, siamo entrati in un'epoca nuova, in un'epoca di violenza sconosciuta. Il caso Watergate, parliamo degli anni 70, gli Stati Uniti si confrontavano con questo scandalo di un presidente che aveva mentito, sapendo di mentire, e con un impeachment che poi è stato evitato perché Richard Nixon ha deciso di dare le dimissioni. Qual è la coincidenza con questa fine di un'epoca? È che qualche giorno fa è morto anche Oscar de la Renta, 82 anni, grande stilista, mitico, simbolo di un'epoca, simbolo di quell'epoca che segna un altro grande cambiamento con l'inizio della presidenza di Ronald Reagan. Oscar de la Renta aveva vestito 4 first ladies americane, a partire da Jackie Kennedy, ma per arrivare poi a Nancy Reagan non c'era differenza di colore politico. È anche morto qualche giorno fa un altro personaggio che aveva segnato quell'epoca, Nelson Bunker Hunt, che era un magnate del petrolio americano, 88 anni, grande ricchezza della famiglia Hunt nel settore del petrolio, ma restarono famosi perché nel 1977 avevano cercato di avere il controllo del mercato dell'argento e ci fu uno scandalo straordinario quando poi la cosa si venne a sapere, il prezzo dell'argento crollò, il prezzo dell'argento aveva raggiunto addirittura $50 all'oncia, crollò a 11 dollari, si registrò il maggior calo nella storia del prezzo dell'argento e questi fratelli Hunt si trovarono quasi in situazione fallimentare. Sono 3 storie molto diverse fra loro, ma hanno segnato degli anni in cui l'America cercava una sua nuova dimensione, cercava la dimensione che poggiava più sul mercato, sulla concorrenza del mercato, si parlava di edonismo reganiano, si parlava di nuovo modo di interpretare la moda, Oscar de la Renta era il re di questa nouvelle vague, Ben Bradley dopo lo scandalo Watergate ha portato il Washington Post ad essere uno dei quotidiani più importanti. Ecco, oggi i quotidiani sono in declino, trionfa internet, queste 3 persone se ne sono andate, ci siamo svegliati con questa sparatoria in Canada, insomma la sensazione che siamo davvero in un momento di grande trasformazione, transazione, di grandi incertezze per il futuro, un'epoca si è chiusa ma non sappiamo come sarà quella che sta prendendo corpo per ora, non senza preoccupazioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno per salutare questi 3 grandi personaggi che, vi dicevo, hanno chiuso simbolicamente un'epoca e dobbiamo sempre più renderci conto che la nuova epoca che ci attende è difficile. Ho scelto una grande, nostalgica, bellissima canzone d'addio. Should all acquaintance be forgot? Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!